Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Bene ritrovati e buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, anche oggi qua con i Padri Eterni, sempre nella nostra formazione da remoto, io a casa mia, Matteo a casa sua. Ciao Matteo. Ciao Fede, buona domenica. Ormai insomma a casa è il luogo del lavoro, per te lo è abitualmente, no? Per tanti tanti italiani è un po' diverso, ma per noi è anche il luogo della radio, ormai è il luogo della nostra convivenza con i figli, queste case che ormai conosciamo in ogni millimetro, però c'è un'aria nuova, no? La sentono anche i nostri figli, che si sta andando verso un cambiamento, verso una trasformazione, forse verso una riapertura di cui parleremo in questa puntata. Ma sai Fede, è anche il luogo della scuola in questo periodo, è proprio perché si va verso una riapertura possibile. Io penso che forse sarebbe il momento anche di ringraziare pubblicamente gli insegnanti per tutto quello di cui si sono fatti carico con i pochi mezzi che avevano, insomma, che non significa che vada tutto bene e che la scuola non abbia subito un duro contraccolpo, ma se non è andato tutto a ramengo, direi che è stato davvero tutto merito loro, quindi grazie da parte nostra. Certo che molti di loro anche li ho sentiti preoccupati, ma siamo noi genitori i primi a saperlo, che questa è comunque una didattica di emergenza, no? È comunque una, certo, non è una didattica sostitutiva, cioè non è quello che stanno vivendo i nostri figli, lo sappiamo anche noi che non è la scuola ideale, però come hai ben detto tu, grazie a tanti docenti, ai loro impegni, gli stessi dirigenti insomma che si sono messi in gioco, anche le risorse che hanno messo pian piano a disposizione, e qualcosa sta sicuramente migliorando, come abbiamo raccontato tante volte. Oggi entreremo nello specifico per capire come stanno vivendo anche gli adolescenti questo momento. Radio24.it è come sempre il nostro sito, da lì potrete poi scaricare il podcast e riascoltare la puntata. Iniziamo, e ovviamente lo facciamo a nostro modo, cioè con una storia. Dove sei? Quando dal di fuori mi vedo piccola e dico un miliardo di parole inutili per non cedere alla nebbia che mi soffoca. Come stai? Io con te non ho più strategie da difendere, ho sempre un'altra occasione, conosci il mio odore peggiore. Tienimi qui, tienimi per mano e non perderti, sono molto più alta adesso, guardare stelle mentre cadono, ci commuovono, stringimi forte, abbandona gli spettri passati, sono navi di mari lontani, resta con me, resta con me. Padri Eterni, eccoci qua, la storia è una storia di tristezza, perché la partenza di questa storia è un papà che se ne va anche per colpa del coronavirus, però da questa perdita nasce un segno, ed è un segno morbido, è un segno ludico, perché è un pupazzo a forma di gatto e con dei colori particolari, sono i colori dell'Atalanta, ed è il pupazzo che una figlia ha deciso di produrre e di dedicare appunto al proprio padre. Diamo il benvenuto a Beatrice Crotti. Ciao Beatrice, buona domenica. Ciao ragazzi, buongiorno a voi, grazie. Grazie a te per essere qua con noi in un momento sicuramente non facile, però questo pupazzo ti sta aiutando, credo. Sì, diciamo che questo pupazzo comunque nasce da un bisogno di partecipare a modo mio e a modo di tutti a questo momento devastante che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo. Essendo una mamma in primo piano e creativa, comunque che utilizzo le mani per fare questi lavori, ho pensato di tradurre il mio pupazzo, che solitamente utilizzo come per me è un pupazzo, un gattino, porta messaggio, a volte utilizzato per la nascita di un bambino, a volte per un semplice grazie. In questo momento la cosa che più rappresentava la mia città, la nostra città, non poteva essere più il simbolo di Bergamo, ma la mia. E quindi è stato, l'ho rivisitato così. Non poteva non avere i colori dell'Atalanta, che è il cuore della nostra Bergamo, e quindi il simbolo del gattino Bergamo con la mia, sono felice che sia stato capito e condiviso in questo modo. Ecco il simbolo di fare una donazione con questo pupazzo. Voleva essere un messaggio semplice e delicato per tutti, perché un pupazzo non ha comunque un costo eccessivo, dove chiunque può partecipare con un piccolo oggetto, una piccola donazione, e forse insieme fare comunque un gesto grande. Questo era il mio obiettivo. Beatrice, senti, quanto questo tuo lavoro ti è stato d'aiuto per superare questo momento? Insomma, la creatività, la bellezza possono essere anche delle medicine che possono aiutare a curare, per quanto immagino in piccolissima parte, anche il dolore di una perdita, aiutare a darle un senso. Diciamo assolutamente sì, ognuno rielabora le perdite a suo modo, e nonostante per me sia stata comunque una perdita in primo piano personale, ritengo che non sia stata comunque per tutti, anche per chi non ha perduto una persona in primo piano. Credo che la ricezione della perdita, chiunque comunque l'abbia capita, e quindi questo messaggio veramente è stato di tutti. Viene facile nel mio caso il collegamento con la perdita di mio papà, ma sarebbe stato un gesto, un simbolo che sarebbe comunque nato, perché tutti noi abbiamo perso qualcuno, e perso e anche guadagnato allo stesso tempo, perché nella perdita sappiamo che ci sono sempre nuovi ritrovamenti, nuove scoperte importanti. Laboratorio Bea, questa è la pagina Facebook e il profilo Instagram dove potete appunto vedere questo gatto, contattare anche Beatrice Crotti, questo gatto dedicato a papà Contardo. Questo è il tuo laboratorio creativo, quello che hai voluto, desiderato, il luogo del tuo lavoro. E tuo papà ti appoggiava nella scelta di fare questa professione, questo mestiere? Diciamo di sì, anche se da papà com'era è sempre stato un po' scettico su alcune mie determinate scelte, ma mi sapeva che arrivata comunque a questo punto, alla mia età, con dei bambini, con una famiglia, sapeva assolutamente che era una scelta ponderata e con un senso specifico. Purtroppo non abbiamo potuto, diciamo, viverlo insieme questo passaggio, perché nel momento in cui è stata fatta la scelta del laboratorio è successo tutto quello che noi conosciamo, e quindi si è un po' fermato. Il laboratorio c'è, è all'inizio, è ancora in costruzione, ma pian pianino prenderà piede sicuramente, e spero che sia un pezzettino di mondo dove sia grandi e piccini potranno sognare. Grazie davvero a Beatrice Crotti, ricordiamo ancora Laboratorio Bea, pagina Facebook e Instagram, tutti i ricavati, a parte i ricavati di questi pupazzi a forma di gatto saranno donati all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Grazie Beatrice, buona domenica. Grazie a voi. Noi adesso ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Well, I think it's fine building jumbo planes, taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, as you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day. But tell me, where do the children play? Ci siamo da domani, da lunedì qualcosa inizierà a cambiare dopo questi mesi di quarantena, e sono tantissime le domande che ci portiamo dietro tutti, e in particolare noi genitori, perché ovviamente uno dei primi pensieri va ai nostri figli, va ai più piccoli, va ai bambini. E quindi non poteva esserci che persona migliore del nostro ospite per affrontare questo argomento. È un piacere per noi qui ai Padri Eterni avere il professor Alberto Villani, che è presidente della Società Italiana di Pediatria e membro anche del Comitato Tecnico Scientifico per l'Emergenza Coronavirus. Buona domenica, Villani. Buona domenica. Grazie intanto per essere qua con noi. E, beh, insomma, da domani, quando vedrà un bambino in giro per strada, cosa penserà? Sarà preoccupato? Sarò molto contento, perché finalmente ci sono le condizioni per poter consentire in sicurezza, ma questo dipenderà molto anche da noi, ai bambini di poter stare all'aria, quindi è una cosa che mi fa un immenso piacere. E sta a noi, no, costruire appunto ambienti sicuri, anche differenziati per età dei bambini. Secondo lei, che li conosce molto bene, qual è l'età più problematica, con la quale sarà appunto più difficile anche spiegarsi, chiedere di stare alle regole? Ma guardi, io penso che vada precisata subito una cosa, cioè il coronavirus ha stravolto le nostre vite, ma non solo in Italia, in tutto il mondo. È un qualcosa di straordinario, inaspettato, e quindi dobbiamo necessariamente entrare nell'ordine di idee che esisteva un pre-coronavirus, esiste un post-coronavirus. Come Società Italiana di Pediatria noi abbiamo fatto anche un documento, che oltretutto è pubblicato sul nostro sito, in cui si danno dei consigli. Quindi chiaramente in un'età compresa fino ai 18 mesi, in cui il bambino sostanzialmente può essere tenuto su un passeggino, su una carrozzina, i problemi sono pressoché zero, nel senso che può essere ben gestito. Nella fascia d'età invece superiore a questa, quindi sopra i 2-3 anni, chiaramente è più difficile governare i bambini e impedire loro, perché hanno questa tendenza ad andare verso gli altri. Allora lì sta veramente a noi adulti cercare di fare in modo che l'interlocutore per il gioco sia uno di famiglia, quindi con l'attenzione a questo, e questo semplifica la vita e oltretutto non rende necessario l'avere delle barriere di protezione. Quindi si può andare al parco giochi stando in un proprio ambito, e questa dovrà essere un'accortezza che dobbiamo avere noi. Quindi più noi staremo attenti tutti, ma non solo con i bambini, a rispettare quelle che sono le norme del distanziamento fisico e delle barriere protettive quando necessarie, e più potremo riprendere una vita quanto più apparentemente normale, certo non paragonabile a quella di prima, ma con una possibilità di avere tanti campi d'azione. Ma questo dipende proprio dal nostro comportamento, da quello di ogni singolo cittadino. Villani, le rivolgo la domanda che credo ogni padre, ogni genitore, forse addirittura ogni nonno vorrebbe farle, no? Proprio perché si parlava di sicurezza, che cosa succederà secondo lei, parlando del nostro futuro, quando i bambini torneranno a scuola, no? Ci hanno sempre detto che proprio loro potevano essere potenziale veicolo di contagio, naturalmente in maniera del tutto inconsapevole, ma è davvero possibile attrezzare le scuole, gli spazi con opportuni distanziamenti, con misure che possano tenere in sicurezza i nostri figli e di conseguenza anche noi? Grazie molte anche di questo, così facciamo chiarezza ulteriore su alcuni punti, perché si è detto ai bambini non sono colpiti, si ammalano meno. No, noi non è questo il punto. Il punto è che i bambini hanno delle forme cliniche molto più lievi, questo è quello che noi possiamo dire con certezza, ma non che contraggano meno l'infezione, quindi possono contrarre l'infezione, ma finora l'hanno contratta in maniera più lieve. Ad oggi abbiamo avuto purtroppo due decessi, ma sono solo due, in bambini che peraltro avevano già precedenti situazioni molto gravi, e anche i casi che hanno necessità di cure intensive sono per fortuna poche unità, quindi effettivamente possiamo confermare che è una malattia più lieve, ma questo non significa che loro non contraggiano e quindi non possano trasmettere il virus. Allora, in determinate situazioni dovremo necessariamente stare attenti. La cosa che viene più frequentemente chiesta è l'incontro con i nonni. Beh, sarà opportuno avere delle barriere protettive, che non necessariamente devono essere dei dispositivi medici, possono essere semplicemente delle mascherine di stoffa, però è bene indossarle, e questo è un primo punto. Per quanto riguarda la scuola, penso che sia ben noto che il ministro Azzolina ha costituito un'apposita commissione dedicata esclusivamente a ciò che dovrà accadere da settembre in poi, che è presieduta dal professor Patrizio Bianchi, che è un professore che è stato anche rettore dell'Università di Ferrara e di cui fanno parte tantissimi esperti, e c'è anche il pediatra nella mia persona. Quindi stiamo valutando tutte quelle che possono essere le modalità per far sì che operatori, genitori e studenti siano in sicurezza nelle condizioni di poter frequentare la scuola. Chiaramente siamo in una fase molto preliminare, molto dipenderà dalla epidemiologia, ma è chiaro che delle soluzioni devono essere trovate, come devono essere trovate anche con una certa urgenza adesso, dopo il 4 maggio, per tutte quelle situazioni nelle quali i genitori andranno a lavorare e i bambini con qualcuno dovranno stare, quindi bisogna pensare anche a questo. Il vero problema, certo, è che ci ritroviamo veramente a dover affrontare urgenza dopo urgenza, emergenza dopo emergenza. Ma secondo lei, Villani, riusciremo veramente a mettere guanti e mascherina ai bambini? Ma io spero che sia possibile modulare questo, nel senso che parlandone proprio in piena libertà, senza che ci sia nessun progetto ancora definito, però chiaramente, mentre per quanto riguarda la cosiddetta formazione a distanza, da certa età in poi questa è possibile, può essere praticata, ma non solo, anche la frequenza con il liceale, quindi con chi fa le scuole superiori piuttosto che le medie, è pensabile, perché si riesce a far comprendere bene l'importanza del distanziamento. In altre fasce d'età sarà molto difficile, quindi bisogna pensare a delle microclassi, bisogna iniziare a pensare a far sì che i presidi di protezione siano indossati soprattutto dagli insegnanti e da chi sta con i bambini, dovremo pensare a degli spazi più ampi, quindi è chiaro che è tutto allo studio per rendere possibile la frequenza scolastica in sicurezza. Anche lì è chiaro che laddove il bambino è talmente piccolo che può stare in un passeggino piuttosto che in una culletta, quindi nei nidi, le condizioni dovranno prevedere essenzialmente la tutela attenta degli operatori, perché il contatto tra bambini sarà pressoché impossibile o minimo. Nelle fasce di età invece prescolari lì sarà veramente difficile, e dobbiamo inventarci qualcosa con l'aiuto di tutti. In realtà sono stati coinvolti dagli architetti, ai pedagoghi, ai sociologi, un po' di tutto, proprio per cercare delle soluzioni per una progettualità di una scuola nuova, diversa, che non può essere quella che conoscevamo prima del coronavirus. Villani, cerchiamo di dare una notizia tranquillizzante, si spera, insomma, parlando proprio di salute, possiamo dire con chiarezza che ora, in questo preciso momento, gli ospedali italiani sono ragionevolmente sicuri anche per i più piccoli? No, lo dico perché lei, come ben sa, prima c'erano fin troppi accessi ai pronti soccorso, no, da parte di genitori spaventati per i propri figli, ora invece i genitori sembrano comprensibilmente, aggiungo, più diffidenti. Grazie infinite, questo è un punto molto importante. In più occasioni ho detto che io sono più preoccupato per i bambini no Covid che per i bambini Covid, perché i bambini Covid hanno un loro percorso. I no Covid, cioè tutti gli altri, adesso sono a rischio, proprio per quello che lei ha giustissimamente sottolineato, il timore di accedere all'ospedale. Non si sono mai viste tante peritoniti complicate come in questi mesi in cui i bambini vengono portati in ospedale tardi, purtroppo, e anche in tante altre situazioni. Allora, gli ospedali sono dei luoghi sicuri, soprattutto per quanto riguarda la parte pediatrica, ma tutti, perché sono stati fatti dei percorsi distinti, quindi non c'è nessun rischio o rischio molto molto basso, perché nessuno, diciamo, non esiste mai purtroppo in nessun campo, però diciamo sono dei posti certi dove bisogna andare. Si è passati da un estremo in cui il pronto soccorso era diciamo usato con forse eccessiva larghezza, al fatto che adesso c'è questo timore. È importante sottolineare quindi che se un bambino ha un problema che merita l'attenzione ospedaliera, deve essere portato in ospedale, avrà tutte le migliori cure. Gli ospedali hanno continuato a lavorare, nell'ospedale dove io lavoro, l'ospedale Bambino Gesù, si sono continuati a fare dai trapianti alle terapie oncologiche più sofisticate, da interventi chirurgici diciamo così non necessariamente altamente sofisticati, ma per il benessere dei bambini, dalle tonsillectomie a qualsiasi altra cosa. Quindi l'ospedale è un posto sicuro. Se un bambino ha bisogno di controlli o di effettuare una visita in urgenza perché ne ha motivo, deve essere portato in ospedale. Che tra l'altro c'è anche il tema dei vaccini, no? Comunque in questi mesi in tanti, anche tanti bambini, tante bambine non sono potute essere state vaccinate, anche qui insomma c'è bisogno di un recupero graduale, giusto? Certo, altro argomento doloroso, sì, effettivamente questo è accaduto, ci stiamo battendo per far sì che i centri vaccinali tornino a essere quello che erano fino a qualche anno fa, prima che venissero depauperati di personale medico e di assistenza, perché i dipartimenti di prevenzione abbiano delle dotazioni strutturali di personale adeguate, perché sono i veri riferimenti a cui poter accedere in qualsiasi momento. In questo momento così complesso in cui c'era il rischio di contrarre l'infezione in mille situazioni e si è temuto spesso che fossero proprio i medici quelli che potessero contagiare gli altri, il centro di vaccinazione diventa un posto sicuro dove accedere, dove c'è personale specializzato e qualificato per fare le vaccinazioni. Quindi anche questo è un altro tema che deve essere ben tenuto presente, perché poi arriverà l'autunno in cui se riprende la frequenza scolastica, come ci auguriamo tutti e come sicuramente sarà, i bambini rischieranno di ammalarsi di più nonostante il distanziamento e le misure di protezione, ci sarà l'influenza, quindi è bene vaccinarsi e proteggersi da tutte le malattie dalle quali ci si può proteggere. Milani, le chiedo un'ultima cosa. Nella sua carriera lei ha incontrato centinaia, sono addirittura migliaia di bambini, e coi bambini anche quindi ci ha parlato, no? E quando si parla di malattia, il crinale tra cosa dire e cosa non dire è sempre preoccupante, è sempre problematico. E un consiglio a noi genitori, a noi papà, cosa dobbiamo dire ai nostri figli in questo momento? La verità? Dobbiamo dire sempre la verità, ma sapere anche sfruttare tutte quelle che sono le positività e quindi enfatizzare le positività. È chiaro che questo è un problema molto grande, ma sa, quando si parla del trauma che stanno avendo i nostri bambini, ma non solo, tutti i cittadini, è chiaro che è una situazione talmente straordinaria e l'essere traumatizzati purtroppo rientra tra le cose che stiamo subendo tutti. Dal meglio in modo che i bambini ne risentano il meno possibile, quindi far sì che se in una giornata c'è un momento bello, magari prima di andare a letto ricordarsi di quello, e poi ci saranno stati anche dei momenti e delle situazioni positive nel rapporto che si è reso più intenso proprio per il fatto di stare insieme a casa. Quindi ci sono anche dei risvolti positivi e dobbiamo enfatizzare quelli. Ringraziamo davvero il professor Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria, per essere stato qua con noi. Padre Eterni e Villani, buon lavoro, perché so che sono state e saranno settimane intense. Grazie a voi e complimenti per le domande centrate veramente da giornalisti e esperti, quindi complimenti veramente. Grazie di cuore, buona giornata. Grazie a voi. Adesso ci fermiamo, è il momento del meteo e della pubblicità, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. resto fino a quando sorriderai tra le luci del mattino e poi questa non è l'aria che respirerai, ricordi quando eravamo noi. Resto fino a quando sorriderai, non ti sveglio in questo sogno, scriverò sui muri della mia città storie di ragazzi fuori. Ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, eccoci qua i padri eterni, ancora mezz'ora insieme di questo programma che cerca di parlare ai padri, di raccontare i padri. Lo stiamo facendo in queste settimane, ormai quasi 2 mesi, dove il coronavirus ha cambiato la nostra vita, la vita delle nostre famiglie, la vita dei nostri figli, e spesso ci si è un po' dimenticati anche delle situazioni più fragili, vero Matteo? Nel senso che noi spesso parliamo di figli e poi si tenta di generalizzare, ma questo generalizzare ti porta a dimenticare chi magari invece è in una situazione un po' più difficile, un po' più complicata. Sì Fede, però secondo me questo esserci sentiti tutti più fragili improvvisamente, addirittura più isolati gli uni dagli altri, proprio come la nostra storia dimostrerà, potrebbe aiutarci, no, a diventare maggiormente sensibili a chi ha problemi e a chi ha delle difficoltà. E questa storia arriva da Bologna, dove da pochi giorni, presso il circolo La Fattoria, siamo nel quartiere Pilastro, un parco privato di fatto è stato aperto per permettere alle persone con disturbi di comportamento, soggetti autistici, ai bambini e ai ragazzi soprattutto, di avere uno sfogo, di avere un angolo di giardino, di prato dove poter stare. Ne parliamo con Michele Amendola, che è socio della cooperativa sociale La Formica, che è all'interno del circolo La Fattoria di Bologna, è promotore dell'iniziativa e papà di Luca e Francesco. Ciao Michele. Ciao Federico, buongiorno Matteo, buona domenica a tutti. Michele, come sono stati questi 2 mesi intanto? Sono stati un dramma nel dramma, una tragedia nella tragedia, per chi come me vive in casa il problema del disturbo del comportamento, quindi dell'autismo. Punto l'accento su un parametro, il distanziamento sociale. Per noi il distanziamento sociale, genitori di autistici o comunque per l'autistico in quanto tale, è improponibile, e in particolar modo è improponibile nei confronti degli educatori. L'educatore, noi oramai sono due mesi, anzi anche prima, perché in Emilia Romagna le scuole sono state già chiuse a febbraio, sono privi i nostri figli dei piani educativi. In questo caso abbiamo avuto una regressione enorme da parte dei nostri figli, i quali necessitano di un lavoro quotidiano per poter imparare delle competenze, per poter avere dei talenti, per tirar fuori i propri talenti. Da 2 mesi senza piani educativi ci troviamo con stereotipie che sono tornate in maniera prepotente, con competenze che si dimenticano, quindi con situazioni nelle parti più gravi di aggressività nei confronti dei genitori, sono all'ordine del giorno. Io faccio parte di ANGSA Bologna, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, che è promotore insieme a me di questo progetto di cui parliamo, che accoglie tantissime testimonianze di genitori che sono veramente allo sbando, convinti che sono diventati di nuovo violenti, perché non riescono a percepire questa nuova normalità. Michele, si parla spesso di uscire e di ripartenza, no? Mai come in questi giorni. Si parla spesso proprio di bambini e della loro necessità di tornare fuori, ma per i bambini con problemi di autismo la necessità della riaperta, di muoversi, di fare esperienze corporee è ancora più vitale. Ti chiedo, come possiamo noi padri, noi genitori, far sentire a chi prende le decisioni l'urgenza di questa necessità? Cioè, cercando di portare anche un piccolo messaggio positivo, voi siete riusciti a trovare un interlocutore disponibile nelle istituzioni della vostra zona Guarda, ti devo parlare di una bella storia, una storia di ascolto e di presa in carico, perché se già da mercoledì scorso siamo partiti, in realtà ci sono già 10 famiglie che si sono prenotate e 10 famiglie che stanno già cominciando a venire, sono già passate qua 10 famiglie. Quando noi abbiamo cominciato abbiamo trovato l'interlocuzione della vicepresidente della regione Emilia-Romagna, Elle Schlein, la quale si è messa al mio fianco, al fianco di ANGSA, su proposta anche e accettazione del presidente del circolo La Fattoria, Simone Spataro. Abbiamo contattato il comune, il sindaco di Bologna, l'assessore Lepore, l'assessore Lombardo, si sono resi disponibili l'AUSL, il direttore del Dipartimento di Salute Mentale. Sapete cosa mi ha veramente colpito in questa storia? La velocità, la rapidità delle risposte di istituzioni alle più alte sfere, quindi la vicepresidente della regione, il sindaco di una città come Bologna, il direttore del Dipartimento di Salute Mentale di un'AUSL come quella di Bologna enorme, il presidente del quartiere, tutte queste persone. Io sono testimone del fatto che c'è stato un tambureggiare di mail immediate, posta la mail, posto il progetto con serietà e credibilità da parte di ANGSA, si sono subito tutti abbracciati, ci hanno abbracciato, ci hanno fatto sentire che qualcosa si può fare. Certo. Il problema dei problemi sono gli educatori, in questa fase noi non siamo in grado di risolverlo, e se mi viene consentito io vorrei fare un accento su un punto di vista, una chiave di lettura, e noi non ci possiamo permettere che un autistico possa essere contagiato dal coronavirus. In molti casi, laddove si dovesse arrivare alla polmonite e laddove dovessero essere intubati per respirare, dovrebbero essere portati a, non so se si dice così, ma a coma farmacologico, dovrebbero essere addormentati. Sarebbe un dramma enorme. E allora io da un lato vorrei anche convivere con un rischio calcolato, con tutte le misure di sicurezza eccetera, dall'altro la mia paura, che è poi quella che viene condivisa da tanti, di tanti genitori di autistici, è che noi non ci possiamo permettere che un nostro figlio possa contagiarsi, né tantomeno noi. Non abbiamo il lusso di poterci contagiare. Allora, grazie a Dio, il circolo alla fattoria ci viene incontro, una famiglia per volta viene e almeno si cerca di togliere un po' di stress. Grazie davvero Michele per questa testimonianza. circolofattoria.it, speriamo che sia una buona pratica che possa diventare da stimolo, no? Per essere imitata anche da altre realtà italiane. Federico, dobbiamo organizzare la speranza, dobbiamo mettere a sistema le buone pratiche e interloquire con quante più persone possibile. Si sta facendo in molte parti d'Italia, non siamo gli unici a farlo, ci tengo a precisarlo, da Palermo a Cosenza, ad altre parti, a Ferrara. Ecco, noi possiamo essere una cassa di risonanza, sì, lo facciamo, non si tratta di prendersi dei meriti, sarebbe veramente svilente. L'importante è provare a comunicare che si può fare. Grazie davvero Michele, un saluto ai ragazzi, grazie, un saluto a tutto il gruppo, insomma, del circolo La Fattoria di Bologna. Buona domenica. Buona domenica a voi, grazie di cuore per l'intervista, arrivederci. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as a morning suit. Can be avoided if you take a route straight through what is known as John Scott Brewer's group. He gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. Ed è il momento ora di spostare lo sguardo verso gli adolescenti, e lo facciamo grazie a un'indagine promossa dall'Associazione Nazionale DITE, che è l'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, in collaborazione con il portale scuola.net. Sono stati intervistati più di 9.000 ragazzi tra gli 11 e i 21 anni, tantissimi dati che commentiamo insieme a Giuseppe Lavegna, che è appunto il presidente dell'associazione DITE, oltre a essere psicologo e psicoterapeuta. Ciao Giuseppe, ben ritrovato ai Padri Eterni. ciao a tutti. E numeri importanti che ci raccontano come stanno i nostri adolescenti. Dobbiamo preoccuparci soprattutto per cosa? Beh, i nostri adolescenti in questo momento sono sicuramente in difficoltà come noi. È chiaro che i ragazzi non hanno le stesse abilità anche no, emotive di gestirle come se fossero adulti. Dobbiamo preoccuparci secondo me del senso di solitudine che emerge. Quasi il 74% dei ragazzi dice di sentirsi da solo nonostante in casa e in famiglia. Forse dovremmo anche preoccuparci dell'abuso della tecnologia in questo momento e dei circuiti compulsivi o dipendenti che si vanno a creare, perché dobbiamo pensare che i nostri figli poi dovranno ritornare a una vita reale, e quindi quando si innescono i meccanismi di dipendenza soprattutto dai social, dai giochi online, da tutto quello che può essere realmente può creare compulsione, secondo me bisogna stare attenti. Quasi il 90% dei ragazzi dice di restare in contatto con gli amici ma di sentirsi profondamente solo, e il 35% dei ragazzi è sempre connesso tutto il giorno. Giuseppe, la tecnologia è indubbiamente una risorsa, però la verità è anche che questi ragazzi hanno cambiato in questo periodo profondamente le loro abitudini. Io lo vedo con la mia figlia adolescente qui in casa, ha cambiato le sue abitudini alimentari, va a letto sempre più tardi, di conseguenza la mattina si sveglia ancora più tardi, ha a volte risvegli notturni anche con dei veri e propri a volte attacchi d'ansia. Insomma, come padri, come possiamo aiutarli in questo periodo? Insomma, che parole dobbiamo usare? Guarda, è tanto complicato in questo momento, anche noi riceviamo tantissime chiamate di genitori, anche di ragazzi che sono in difficoltà e che magari hanno avuto i primi attacchi d'ansia o veri e propri attacchi di panico. Stanno cambiando le nostre abitudini, noi da genitori forse dobbiamo iniziare a dare una regolarità, fare una sorta di calendario della giornata, prevedere anche dei momenti di detox dalla tecnologia, perché la tecnologia, come dire, in questo momento probabilmente ci sta salvando. In questa ricerca un dato che è emerso secondo me molto interessante: abbiamo lasciato un'unica domanda aperta e in 3.000 ci hanno risposto, cioè cosa avreste fatto senza la tecnologia. Tutti i ragazzi hanno detto che avrebbero fatto più cose, avrebbero voluto fare più cose con i genitori, fare attività manuali, fare attività pratiche. Forse dobbiamo reinventarci e sfruttare questo momento per costruire una relazione più forte con i nostri figli, perché non ci capiterà, mi auguro, ecco, più un momento di clausura così forte e così lunga. Dipendenze.com è come sempre il sito dell'associazione che vi consiglio di guardare, sia per conoscere meglio la ricerca ma anche per tutte le attività. Però Giuseppe, direi è una settimana importante questa, perché è una settimana di ripartenza in un certo qual modo, comunque è una settimana che guarderà in maniera un po' più speranzosa al futuro. Ti darei appuntamento a settimana prossima, se hai voglia di essere con noi per darci veramente strumenti pratici, per dare strumenti pratici a noi padri sul come accompagnare al meglio i nostri figli in questa fase di transizione. Va bene? Sì, grazie, con molto piacere. Grazie a tutti. Adesso ti salutiamo, noi ci fermiamo al momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. La bicicletta è una fabbrica di buon umore ed è un'ottima scusa per fare amicizie. In bicicletta ci si dà sempre del tu. La bicicletta fa un po' ritornare i bambini, ci riporta un po' alla nostra essenza. Devi accettare il passo che lei ti detta, il passo che il tuo corpo, il tuo fisico, la tua mente in quel momento possono darti. Qualunque sia il vostro ritmo o la vostra meta, c'è sempre una bici adatta, un itinerario da scoprire, un'occasione per mettersi alla prova o per tornare bambini. Sono Alessandra Schepisi, vi aspetto all'interno di Passione Domenica, ogni domenica alle 16 con A Ruota Libera su Radio 24. Padri Eterni. Living for today. E con Imagine ci avviamo verso la chiusura di questa puntata dei Padri Eterni e lo facciamo con un neo papà. Diamile, benvenuto ed è un piacere averlo qua con noi, ad Alessio Boni. Ciao Alessio, buona domenica. Ciao, buona domenica a voi, grazie dell'accoglienza. Vabbè, siete fortunati perché sta poppando adesso, se no lo sentirete in viva voce. Credo sia stata una quarantena particolare per te, perché insomma ti sei potuto dedicare H24 a questo nuovo mestiere. La più bella, mi dispiace per la tragedia che ti circonda, ovviamente, che non avrei mai pensato voluto vivere in vita mia, però per quanto mi riguarda è la più bella in assoluto, perché potevo vivere, perché sto accanto a mio figlio dalla mattina alla sera e mai avrei immaginato, perché sei in tournée teatrale eccetera, già calcolavo quando scappare, vederlo di lunedì, e invece averlo qua dalla mattina alla sera è una cosa, vabbè, sfumature che cambiano ogni ora, non ogni giorno, ed è interessantissimo, proprio antropologicamente parlando, proprio da studio, proprio lo studio, me lo guardo e controllo anche le diversità dei pianti e di espressioni che coglie, ed è magico, è una sorta di magia. Alessio, senti, personalmente la cosa che mi ha più colpito nel diventare padre è proprio questa sensazione di non ritorno, no? Cioè il fatto che a differenza di tutte le altre scelte della tua vita, questa cosa qua è una cosa che non si potrà cambiare mai più, e di solito questa sensazione può anche scatenare, come dire, una forma quasi di panico, no? In quest'epoca di scelte sempre reversibili. Nel tuo caso invece sembra che la gioia abbia preso del tutto il sopravvento. No, cioè, com'è andato? Per quanto mi riguarda, guarda, quando io sono stato in sala parto, ti posso garantire che quando lui dopo 15 minuti, 20 minuti era sul ventre della mia compagna, ovviamente che lo stanno fare proprio skin to skin, ho tagliato il cordone, sono stato lì, è stata un'emozione, è inutile dirlo, e poi quando ho aperto gli occhi ho sentito proprio il tramando dell'eternità. Non c'è bisogno di essere gli dei immortali, come scriveva Omero, per avere l'eternità, l'immortalità, ma ce l'hai proprio attraverso il passaggio di testimone che fai al figlio. Il suo sangue diventerà freddo, il suo continuerà a pulsare. E l'ho sentito proprio in modo potente, forte, che non mi ha creato nessunissimo stato d'ansia, nessuna, continuo ogni giorno ad avere più forza, e c'è una ragione ancora in più per cui è venuto al mondo, ed è lui. È già una sua essenza, già un suo carattere, già tutto predefinito. Noi potremo solamente indirizzarlo in un'educazione, in una libertà interiore, perché poi dopo possa fare le sue scelte serenamente senza avere spade di Damocle sulle idee che ha, ma non sento assolutamente di tornare indietro, anzi è una propositività ancora più forte, mi sento ancora più energico, si è aperta un'altra forma di amore, si è aperta una porticina che mi ha fatto incontrare 20.000 Cappelle Sistine di colori diversi, questo è. Alessio, a proposito di padri e figli, i nostri figli ti conoscono bene come attore, in particolare anche per la Compagnia del Cigno, no? Che è una serie amatissima dagli adolescenti e dai ragazzi. Sto pensando che in questi giorni ho parlato con diversi ragazzi che fanno musica, alcuni di loro fanno anche conservatorio, e sono preoccupati per come stanno facendo e per come faranno lezione, no? Perché per loro la didattica a distanza, paradossalmente, insomma, sembra che manchi qualcosa, no? Cioè manca il rapporto umano, manca il suonare con gli altri, e sono preoccupati anche per il loro futuro, per il loro domani. Certo. Aiutaci certo. A trovare le parole giuste. Cosa va detto, secondo te, alle nuove generazioni in questo momento? No, è inutile negarlo, è un momento proprio abbastanza tragico, soprattutto nel settore artistico, perché, come dici tu giustamente, se non hai un altro maestro davanti che ti suona il suono, che ne so, adesso esagero, di Stradivari, ma di Stradivari non si trovano più, che è venuto proprio colto da una pianta particolare in quella stagionatura, eccetera, che ti fa vibrare le corde interne proprio fisicamente, che può venire anche la pelle d'oca a sentirlo dal vicino, un suono, una cantante, o un attore, o un musicista che ti suona in un certo modo la tromba, eccetera, non lo puoi percepire ovviamente davanti a uno schermo, è un'altra cosa, perché non ti invade proprio la particella musicale, non ti arriva addosso. Benissimo, è solo un momento, ragazzi, davvero, è solo un momento. Oggi ho parlato con il ministro della cultura, il professor Dario Franceschini, e stanno facendo di tutto, hanno erogato tutto il FUS, il Fondo Unico dello Spettacolo, stanno cercando insieme a tecnici e quant'altro di poter riaprire tutto, dai musei a tutto quanto, anche i teatri, il prima possibile, le possibilità di apprendere e quant'altro, magari con le dovute cautele, certamente distanziati, eccetera, ma si ritornerà, anche perché senza cultura il nostro paese non può avere un'identità, e ve lo posso garantire che le altre sfere lo sanno e ne sono consapevoli di questo. Quindi la musica soprattutto, che è il veicolo più potente, universale, che gira in tutto il mondo, quindi non abbiate paura, perché tutti i maestri, anche chi ha voce, i big, sono pro alla riapertura. Certo, un po' di pazienza ragazzi, bisogna esercitarsi in casa, non mollate il solfeggio, abbiate sempre, meglio che niente, anche io faccio delle lezioni via streaming con la mia, che ne so, educatrice della voce piuttosto che di canto eccetera, meglio che niente, però si ritornerà e si deve ritornare alla norma, ma ci vuole un tempo e non sarà brevissimo ragazzi, brevissimo. Ti sei immaginato che adolescente o che ragazzo saresti stato in tempo di quarantena? Mamma mia, no, non so come avrei potuto resistere, perché io ero un vulcano, non riuscivo a star fermo neanche in un campo da calcio, figurati in un appartamento di 100 metri. Non lo so, sai che non mi sono, questa è una domanda qui che non mi sono posto, perché come tu hai detto mi è arrivato un figlio, penso tutto a lui, se questo passaggio di testimone è tutto su di lui. Non me la sono posta, adesso ragiono con te, ma certo, con grande sofferenza sarei stato. Sai cosa c'è? La nostra, io non so di che classe sei tu eccetera, poi io sono del 66, la mia adolescenza sarebbe stata molto molto più difficile, perché tranne libri e un po' di televisione non c'era nient'altro. Oggi ci sono i social, hanno i cellulari, i computer, questi giocano a scacchi, fanno chat eccetera, c'è meno solitudine rispetto a un tempo. Sono anche fortunato sotto questo punto di vista. Penso se il coronavirus fosse venuto negli anni 60, cavolo, non c'era il computer, non c'era il cellulare, non c'era niente, difficilissima la cosa. Qui bene o male ti vedi, ti guardi e ti sembra di vederti ogni giorno, quindi la nostra sarebbe stata più tosta, molto più tosta, e non so, penso che sarei scappato in qualche forma, anche correndo in un bosco, ma l'avrei fatto, anche di notte, rischiando. Alessio, senti, l'intensità di questa esperienza, no? Di questi giorni, anche di questi giorni che stai passando a stretto contatto con tuo figlio, credi che ci restituirà anche un Alessio Boni diverso come attore? Forse con una consapevolezza nuova? Ma sai che penso di sì, perché sono arrivate due cose molto potenti, molto forti. C'è la paternità, che è una cosa che cambia, non è più come prima, come diceva lui esattamente prima, e questo coronavirus, che guarda, eravamo talmente dentro la ruota del criceto che non ci soffermavamo neanche a controllare veramente la famiglia, i tuoi cari, sì, forse la tua fidanzata, la tua compagna, ma ultimamente magari uno che è sposato da 30 anni, neanche quello. Infatti ci sono state 3 miliardi di battute, di aforismi su questo caso, e c'era dopo 7-8 giorni che c'era proprio il blocco, era una fantastica, 7 giorni che sto a casa e mi sembrano tutte delle brave persone, perché non si conoscevano così tanto, quindi questo ha dato la possibilità di conoscersi. Certo, magari uno è da solo in casa, ci mancherebbe, però questo conoscersi non è che isola da se stesso, conosci anche di più, hai più possibilità di aprire, di lasciarti andare. Prima non avevi il tempo, sei obbligato a stare a casa e comincia il neurone a nutrirsi di libri, di coscienza o comunque di letture, di quant'altro, per poter poi dopo ripartire ancora più ricchi di prima. Questa è un'opportunità, è una specie di mesata sabbatica. Il Shabbat, gli ebrei, il Shabbat, l'anno sabbatico famosissimo che continuano a denunciare, era che dopo 6 anni del proprio lavoro, della propria famiglia, delle proprie cose, si fermano un anno, quelli proprio ortodossi, si fermano un anno e pensano e studiano e dicono: mi piace il mio lavoro, mi piace stare come sto, è giusta la mia famiglia per me, è giusto quello che faccio? Ok, se è giusto, riprendiamo. Prendiamolo in questo modo, perché ci darà una grandissima energia. Non tutto il male viene per nuoto, bisogna poi tra l'altro vedere sempre il bicchiere mezzo pieno che non quello mezzo vuoto, anche perché ti dà delle possibilità. Cioè, io ho fatto delle cose che non avrei mai potuto fare prima. Il solo fatto di poter assistere al parto, ti giuro, ero in tournée, l'avrei perso. È una cavolata, questa è una mia cosa, ma chiunque può mettersi dentro e avvertire quello che prima davvero non poteva neanche sognarsi di permettersi di avvicinarsi. E quindi questa è una ricchezza, prendetelo, non è che deve essere un abbruttimento, non è che deve essere uno sdraiamento della cosa, puoi essere attivo in 3 miliardi di cose. Io non posso uscire, te lo giuro, l'attività la faccio nelle scale nelle rampe delle scale del condominio, su e giù, cioè mi invento delle cose, mi tengo fiato, faccio delle cose, ognuno con le sue capacità. C'è gente che suona di più adesso, che ha composto, anche Nicola Piovani ho sentito oggi, compone come un pazzo, e magari usciranno delle melodie fantastiche, gli strumentisti, soprattutto quelli di cui mi hai parlato tu prima, i ragazzi possono veramente, dato che non devono andare a scuola, cioè possono solfeggiare 8 ore al giorno, cose che magari non si potevano permettere prima, migliorarsi tecnicamente e carpire sempre di più. Questa cosa qua ci fa non è che devi sapere, a me non me ne frega niente di sapere, di mostrare quello che uno sa per sapere di più, eccetera. Il sapere di più è perché ti rende più cosciente di te stesso. Se sei più cosciente di te stesso, c'è un'armonia che fa paura, perché più cosciente di ognuno di se stesso abbiamo in giro, più davvero è serena il convivio, il rispetto, eccetera. Alessio, grazie davvero per aver condiviso con noi questo momento grazie particolare, questo momento bello. Grazie per le tue parole, grazie anche per le parole che hai dedicato alle ragazze e ai ragazzi che hanno bisogno di maestri, di esempi e di stimoli. Buona domenica. A voi, ciao, ciao. Tempo scaduto, è il momento dei saluti. Un grazie come sempre a tutta la squadra di Radio 24, un grazie a Danilo Di Trani che con noi ha scritto la puntata, un grazie alle ragazze e ragazzi di Radio Immaginaria per il supporto per realizzare il programma, e grazie come sempre a Matteo Bussola. Radio24.it se volete scaricare il podcast e riascoltare la puntata. Ciao Matteo, buona settimana. Ciao Fede, buona settimana anche a te. L'appuntamento, come sempre, a domenica prossima alle 11. Ciao! Ciao!